per sempre. Ne voglio un doppio sacrificio, il dover io farò. Ma voi, santo figlio, il suo sarà. Verge! Io mi vendicherò, il tribunal di sangue, domani aspetterò. Solo del corpo.